fate di Luigi, o da Loretto di San Cusco? Si sono venire dal suo fianco. E di la verità di San Cusco, da Loretto, da... Eia, eia! Da Rovacco! Io le campagne, io mi trovo io come c'è te. Io mi sono capace di uomini e donne. Il programma dei vecchietti. Io mi sono cazzato là da campagna a che fare troppo vento. Eccoci qua. Già lo credo, è vero. Ma con i draghetti sono partiti. Ha fatto vedere al televisore, al telegiornale. Tu gnonda. E dunque niente, fino alle 10 è ancora così forte il vento. Poi domani di meno. A salvare, a salvare. Lo metto pure vivo. Puro attore, da Romare se ne è tutto pure, a un'onda. Se ne è tutto. E si è parato in mezzo a due cani. Addirittura. Allora erano lenti quei cani, erano. E allora? Vai a prendere la bandiera. Trainato dalle cani. E avanti vicino la bandiera roia e si è uscito. E allora? Pure con la pinna era. E lo boccaglio pure fa via. E allora? Un ciuco longo longo. Meno male non si è pigliato il motore. Roma girava, il motore lo girava, capito, mette a a Luca, guffo. Ehi, l'acqua scusa. Ah, ma mi parisce ancora nulenti. Arriva da Riva, quei cani, Tore. Un travaglio, con questi cani. Carlo di la dritta e Carlo di la sinistra. Adesso mi hai baciato con l'inizio, si assegni. Vabbè. Non so come andiamo, la tavoletta di cioccolato. No, ancora no. Non mangiare il suo bello caffè, bacia. Ma io la sera, faccio tutto l'amico, la sera qua. Ma la 27 assesa mi hai? No. Cos'è? Ma c'è qualcuno che ha detto qualche cosa, avanti. Avanti che vuole entrare. Su cucciù. Chi ti dà il suo caffè? Progenie a chi? E me lo so con buffelli. Piglia lo buffalore a buffatino. Lo buffalore piglia, attacca così o attacca l'aspirapolvere. Buffaluffa! E chi è? Chi è? Buonasera a tutti, Natalino sono, dai. Alfa 1. Chi è? Grazie, a chi è che non l'ho capito? Natalino, però sto uscendo un po' male. Natalino, ti sento, grazie, sono io che c'è la voce bassa, capito? Tratti. Ho detto che ho la voce bassa. Ciao Maria, non lo senti? Ciao Maria, Natalino, lo senti? A tratti chat in mezzo a QRM lo sento. Ma non so se mi sente a me lui. Benissimo, ti sento io. Deboli uci, capito? Non c'è un difetto alle corde vocali. Ehi, ma tu lo senti a Gian Maria? Tutto che lo sento benissimo. Gian Maria ti sente benissimo. Oh, non capisco io perché c'ha la voce troppo grossa e il QRM non si capisce cosa sta dicendo, capito? Ma è parlamobile, sì, Natalino? No, negativo, sono rauco. Ah, rauco, adesso ti ho copiato bene. Adesso che... La riflessa da peccato, sta piccando, no? Sì, so che prima di nadare così. Sì, lo trovo una, addirittura prima di nadare. E te è abbigliata la gotta allora. È brutta, questa influenza, Gian Maria. Non lavoro neanche al peggior nemico. Mamma mia, pazienza, ma il vaccino fatto la vivi? So che non mi attacca a me, Gio Marie, che la volta che mi ha preso la dottoressa di forza a farmelo, l'ho presa 3 volte l'influenza l'anno. E allora fai come te me. Io prima la facevo 6 anni e mi beccava e facevo buono, allora non la giovaggio più. Così che il lavoro ce la ci imparo. E non li posso, non le faccio. Oh, ma che tanto mi piglia di più? Scusa, cosa senti? Di rimborso c'è un marito giubilata. Quando mi ha fatto il vaccino, la dottoressa a forza mia, che non me ne voglio fare io. E mi ha fatto questo vaccino, 3 volte l'ho presa. Prete e bara. Vieni, non ti piglia, non fai il vaccino, com'è ti piglia? E se ci vuoi che viene più brutta puro, non saranno, non ne posso. Oh, me l'ha detto, detto non le facciano. Ma io e mia moglie non le facciamo. Dalla volta 3-4 anni fa, dalla volta non stiamo facendo più e siamo più tranquilli, sperando sempre e tutto vada come sta andando. Ok, vai, grazie. Graziano. Graziano, te farato, tu? E chi su? Vai te, se mi vendo un caffè, faccia via, grazie. Dice che è troppo gaglia, e sto a pigliare un ventilatore a raffreddarsi il caffè. Aspetta che mi sto prendendo la roba. Prima c'è, facendo la roba, sta. Il caffè è la faccia rossa, se pigliendo, chissù. Serbo, certo. Mi raccomando, scende la rebbi. Chi scira la re. La voce della Branci. Io mi è venuto questo abbassamento di voce adesso, mi è venuto, ma non ci ho passato di tutti i rigori, Gio Marie, ti so così tenne, vea come ti sanno mai, e poi a me non è che mi piglia così non l'influenza, boh, ti sanno, mi ha pizzicato, cosa vorremmo fare? Mi veniva la bulla così, mi è quasi un mese, catta. È sempre una fribba, è sempre una fribba, iniezione, antibiotici, e malato che vale, è sempre una fribba, Che non ti vuoi fino. No, io non c'ho più nulla, c'ho solo questo abbassamento della voce e basta. I premi mi basta in presa, non manco bussi sì. Occhio quando esci, perché ti ha ricaduto peggio, come ha fatto a me un anno. Oggi la poi la gioco ricaduta, ma fa il suo chissà di più ancora. Finalmente non sei completo, non usci. Infatti, perché febbre non ne ho, non c'ho nulla, però non sto uscendo, sai, mi pizzicheggia. Un attimo il telefono. Yeah. E ben Natali. L'idea che l'hanno, mi è toccato nuda. Una passata di me, di queste ho. E chi su mi l'ha voluto me? Ma tu intanto la supposta non mi l'hai data. E barrato. Leonci. Ehi, dimmi, la supposta. Non voleva dare la supposta. Però non c'è venuta a dare, io gliel'ho detto per essere la lava, così mi faceva bene e la voce mi sarebbe tornata normale, invece lui no, bella amica, te l'immagini. Grazie. Ti sento male. Ti senti male? Ah, ho sentito, dove sei? A casa sono. Tutta tratta sei uscito. Detto, sono a casa. Sono mezzo influenzato. Hai capito? Grazie. Raffreddore al massimo. Abbiamo da fare. Non so io cosa abbiamo da fare. Ma ho fatto un cazzo che il vaccino l'ho fatto, cazzo, però. L'ho fatto, però. Quando deve venire viene. State parlando uno sopra l'altro. Capito? Che apparecchio stai usando? Leoncino, che apparecchio stai usando? Grazie, a Leoncino stavo dicendo, a vedere che apparecchio. Non ti sento più. E neanche io, Leoncino, non lo sento. Tutto scorreggiato ti sento. Sì, a me mi senti scorreggiato. Vai la Pazzino con il PMR, Natali, vai la Pazzino, allo comodo, vai. Grazie, Vicenti. Graziano. Sta roba. Ciao Marina. Chi te ne è? Lo sentivo tutta tratta a Natalina. Io me l'ho sentato per il telefono. No, io stavo guardando la roba asciutta, ne l'ho entrata. L'altra la lascio ancora, finché c'è il sole. Sì. Io mi sono appentendo il computer. No, se viene quella amica di mia figlia, non lo so se ci viene. Devo fare quell'email e la batteria. Ah, perché tua figlia non ci riesce? No, sta studiando, sta, non la voglio disturbare. Ah, ho capito. E tu non lo sai fare? Ma non ha giovana io, vado a farlo. Già lo so che fa, ma non ne ho voglia. E poi vi pongo di più a farlo. Vabbè. No, sto capendo così, i frugenti sogo, a vendere gli apparecchi. No, non devo comprare niente, per la paese, capito? Ehi, a me Marco se lo sta vendendo la R, l'Inoite a R, no, l'Intec a R 5005, se lo sta vendendo. No. Lui ci ha messo le mani sopra. Dice che è nuovo, però lo sta vendendo troppo, per me è troppo, 750 euro. Le ho detto, ma sei a Genova, se guardi, adesso non so se c'è ancora, c'era 46, 146 euro, nuovo da negozio. Dice così molti sono usciti, e provo a guardare, un altro posto era 166. A Torino, e dunque dicono non lo vende troppo. Ma quando l'ha comprato lui ha comprato 210 o 220 e lui l'ha comprato con la cifra, anche io l'ho comprato così, 210 l'ho comprato io, capito? Adesso magari hanno calato, però io se lo vale 150 euro io. Guarda che se lo vanno per quell'apparecchio, perché è completo lo stesso, capito? Ma per prendere quello io preferisco comprarmelo nuovo a giugno di zero, 20 euro, e sono sicuro che non vuoi dare un negozio. Cosa ne so? Vabbè, quello è vero, Quello è vero. Sì, quello è vero. Sì. E allora fai così. Se lo senti, se vuoi fare uno scambio, io lo prendo io. E cosa puoi scambiare? Buoni di Nali, se vieni di là, all'assicurazione della moto. Allora non se ne va più nel manco. Allora no. Da sto bene così allora. Sì. Oh, che ce l'ho io, Io ce l'ho il 5005. No, a fare uno, a fare due è la stessa cosa, Vabbè, a me il subleggio è troppo, uno. Due, se ti rubo raggiungi il 520 e gli anni di garanzia. Ed è nuovo, sai che è nuovo. Ah, che quello è vero. Ma io pure, ragazzi, capito? Io pure non lo compro così. No, solo al negozio compro io, boh, basta. Ho nuovo niente, oh, non me ne serve, ce l'ho io. Però, ripeto, la si trova 164, mi sembra così nuovo, mi sembra, Sì, il Regno Unito però. Già l'avevo visto, magari proprio dopo, non so. Avrà aumentato la precisazione, avrà aumentato il segnale. Quello si è toccato, quello lì, capito? Però lo sta usando poco, già è buono stesso, però se tu preferisci l'uovo, io pure preferisco l'uovo, capito? Ah, quella parico già veduto Franco. Posso? Infatti, ma conviene, dai, conviene il nuovo e basta, no. Io ripeto, se dovessi comprare altra roba la prenderei nuova, usato no, manca, anche se me la metto a prezzo, non le voglio, no, lo voglio nuovo, lo pago di più, ma almeno sono sicuro che è nuovo, c'è una garanzia e sono tranquillo, capito? Oh, può darsi non abbia toccato lui pure l'apparecchio, ma io ho detto così, può darsi pure che abbia toccato o non lo so, capito? Fai bene. Mi assento 10 minuti, grazie. Avanti che vuole. Scendo. Ciucucciù! Bella bene! Bello giù, Slumi, stasera! Ho bellissimo il 23! Acceso ce l'ha! Io ce l'ho sempre acceso il 23! Io ce l'ho sempre accesi tutte e due! Cucciù, accisi. Ehi, la doccia ti stai facendo? Tu cosa vuoi? La salito, tu sì. Beh, grazie. Ti sento male. Sì, non è colpa mia. A momenti ti sento bene, a momenti esci a tra. Non ce l'hai la 27. Matalino, Luca Lupo, morto sei, Cupo Luca. Grazie, mi senti? Uiui, sono messo male. Ce l'hai? Sì che ce l'ho. C'è della 27, sul 23 ci sono. Dai, dai, ci sentiamo lì. Eia. C'è? Sì. No, domani devo andare. Eia. Te lo faccio o me lo porti qua, te lo faccio io. Capito? Allora vado, mi vuole 2 minuti. Fuori di la manta. E allora fatelo, no. Non finire, non perdere la ventina. No. Qua sì, perché c'ho la 27 accesa. Il baracchino. Me l'hai detto. Peggio batte. Vabbè, saltati qualcosa. O se ti bruci l'alimentatore, mi. Ma il coso, o se si brucia il caricatore, vuole saldato, mettilo una goccia in stagno. E me lo porti e te lo faccio io, anch'io da vivere, siccome inutile. Non oggi, me lo porti un altro giorno. Domani no, che devo andare a far corsa. Aspetta che rispondo là a Natalino. E beh, fa la capra, avanti chi è? Avanti! Gusto! E beh, a che ora sei arrivata oggi? Io? Ehi, lavorato hai? No. No. E come mai, è l'impresario? Ieri? La fa tu da oggi? No. Io già là, è l'impresario già. Tu te la liberate di girabanza, Luca Gufo! Moncheri! Ehi! Mi sto mangiando un moncheri! Buono, Con la ciliegina dentro! Ok, la grazia è mia! Oh! Ce l'aveva 95 prima del pranzo! Buono allora, dai! Ma se tu ce l'hai così, allora se dici una dieta, che non mangi cazzo, tu piano la pastiglietta. Proprio io ho visto, cioè, se avrà mangiato pasta in più. Ma la mia mi sale e mi scende così, quella che ho io. Perché appunto se io ho provato anche a non mangiare nulla, sulla via mangiami una cosettina così e alzarsi alle stelle. Senza mania. Non c'è nessuno. Cioè Maria è venuta gente. Tore ci doveva mettere roba al magazzino. Ma dici fra un quarto d'ora, 10 minuti e va passata un'ora. Boh. Ho capito. Vabbè. E già 2:05 dico ma. Se dovevo andare presto io al lavoro. No, domani mattina che mi alzo. Alle 7 perché devo andare domani per il coso dei biglietti del tram. Può svegliarmi alle 6:20, non ci sono svegliato prima. Mi sono svegliato prima io che la sveglia. Ehi, già fatti bene, dai, non mi ha dato un vizio. Io la maggior parte me ne ha soppresso la mattina. Sono riuscita male, mi sono rimasto sino alle 9:10, da. Però. Oh, a svegliarmi mi sveglio alle 6, mi giro dalla Sabatti, massimo alle 7 mi invito, però oggi ha detto ma tanto non devo fare nulla, mi sono costato sino a quell'ora lì. Ho capito. Sì. Grazie, ma non c'è fare cammini, eh. Se sai quanti passi mi facevo da solo. Montagne, anche da solo mi è capitato a impastare giù me, ad attaccare, a metterlo nella carriola e attaccarla al montacarico e a portare a salire su poi a piedi nelle scale e portarmelo su col montacarico a Massetto, mica non mi doveva fare, anche da solo me lo facevo un amazzo che non finiva più. A chi dovevi prima preparare l'impaccio, giusto? Finami la carriola, attacca la carriola al gancio del montacarico, salire su al terzo piano, a figli, tirarmi sulla carriola, svuotarmi la carriola, tirarmi la riga, riscendere giù la carriola, riscendere tutta la zona. Vabbè, è gonfio, mi fa un bel male, tanti anni che lo viene, di solito la schiena, quello sì. Sai tu, ragazzi, non si dà molto tempo fermo, no? L'attico lastico, mi posso che mi faccio un bel male. Vediamo se vado dal medico, vediamo un po', capito? Adesso quello è come di sempre fermo, che non facevi questi movimenti che stai facendo adesso e ti provano, è logico, non è abituato il polso, è logico che ti prova. A riprendersi, a passarti, devi farlo di continuo, allora gli atti bassa, non ti si gonfia neanche più. Ma quando stai a distanza, che lo fai un periodo sì, e da poi stai 3 mesi, 4 mesi, senza fare nulla, è logico se lo fa. Sono degli anni fermo, ma non fermo. Vabbè, ma dico, impastando non me lo fa, non me l'ha mai fatto. È che stavo dando una mano a Luca e sono a care, forse è per quello. Come giri il polso, no? Se gira una volta, gira tre volte e si senti ammatto. Ti ha stirato i nervi nel polso e logicamente ti bruba. È logico che ti bruba. Tu ti metti un po' di polsarete, lo imburigheggi o se no prendi un guanto vecchio, mi dagli il pezzo, quello che arriva al polso, e ti metti quello, l'usi a pulsino, che il guanto è di lana ed è caldo, e ti metti il voltaretto, quello lì, e se lo fa a giù di dieci, basta. Poi domani lo rifai il movimento che hai fatto oggi, e vedi che già ti passa. Se no ti muore un sacco di iuta. Se no ti muore un sacco di iuta. Allora, così non prendi freddo. E a cambio, la dritta è tratta la sinistra, non ritratti tutti e due di male. Sì, ma non so come mancino, capito? A me fa un bel male. Senti, fino a come a guidare la macchina. A pranzo a casa non riuscivo mai a prendere il bicchiere. Già ti passa, quello perché li fermo. Comunque, ciao Claudio, ben sentito. Buonasera, buonasera, divertitevi. Un saluto a tutti. Ciao Graziano, ciao Luca. Ciao Bollo. Ciao Cla. Ciao Casare, divertiti. Sì, pura di missimi. Cosa vai, a Dolorici? Ma sto usando un bella pala, stai usando. Vabbè, non te lo risolve il problema la pomata. Il polso poi se non un po' di tendinite, lui anche la paletta te l'ho fatta tenendo la stretta, capito? Il movimento delle dita ti può fare un po' di infiammazione al coso, al polso. Già non è niente, già passa. Se no, Rudy non ci ha fatto anche lui, vedi, ti basta tutto. No, mi posso più marica. Guarda, la mano destra non la posso trattare. Sì. Zirucca, ho trovato le schiave così, passi. Però è dovuto dal lavoro, dai. Magari eri un po' più fermo e adesso stai usando un bella paletta, quindi è quello lì. Niente di grave, Lu, a futtidini. Piano piano via passa. Ciao, ci sentiamo. Ciao, grazie, sempre a Bottici. Io ti accorto, mi fai sotto, sempre a Bottici. E chi io? E allora, raga, ma buon Natale. E allora, tu, sempre a Bottici. Oh, ti dà Santa Maria di Pisa. Ma posta, sono tutti i soldi, nonchi. Parini li fantasmini, entrani, vengo subito ai parini. Ah, Lucie, vuol dire che va cosa, dai. Ciao, grazie, ci sentiamo. Ciao, Lucarie. Ciao, Cla, alla prossima. Buon proseguimento in serata. Vai, Lu. Ciao, ciao, Cla, ci sentiamo. Ehi, ciao, Claudio, ciao, Luca, ciao, Graziano. Ma chi c'è avanti? Ciao. C'è una bella differenza con quella. Non ho capito cosa mi hai detto. Sono un po' distratto, perché mi sono distratto guardando le immagini. Dimmi, Luca, ripeti per favore. La differenza da fare, ma non vale. Io sono Cattolini. Lo stesso lavoro, guarda. Che è molto più leggero. Avanti, signor Graziano. Ciao Pacchigio, ben sentito. Già non muori, ma non travagli lo se non è morto mai nessuno, Luca. Vedrai che già ti passa, tu adesso ti metti un po' di portare stanotte e poi te lo allievi, poi domani fai lo stesso movimento e vedi ti passa tutto. Un paio di giorni e sei un treno, vero Bacchi? Io è un treno imparato. 12 ore, tranquillo. Claro. Ma lei che hai fatto una distorsione allora? Ho troppo caldo. Perché sono rimasto. Non riuscivo mai a mettere le marce. Ma non è che ti hai fatto una distorsione tu, no? Chiudendo l'impatto con la baretta, no? Non è che ti hai tirato in tutta la mano, boh! No, no, no. Che al comune, eh. Prova a avvicinarti a vedere cosa ti dice. Ma uno di voi ti riduttori ti dice una cosa e magari non è quello. Già, già è così. Come da me pare fatta. Dice lei l'ha usata troppo questa spalla per lavoro. L'ha detto, ma la vede, guardi che proprio questa è che non ho mai usato, ho sempre usato la spalla destra, c'è a portare sacchi di cemento, caldarelli e tutto quanto. Questa non l'ho mai usata perché non ci riesco da questa parte a appoggiarmi niente. E allora è arrivata a bocca aperta come un macco. Non c'è nessun altro. Ciao Maria, come al solito è venuta gente, per lo più va sempre gente. Tore ci stava scendendo del materiale che gli è rimasto in magazzino, mi ha detto 10 minuti, un quarto d'ora ed è sparito la circolazione, a meno che non ci abbia ribagliato regali. Chi se la pensendeva va a me, il gruppo se l'ha mangiato, ovviamente ha fatto un coso, la cappuccetta rossa l'ha mangiato lo gruppo, così l'ha fatto a Tore. E allora chi mi ha detto che non si può muovere dai vivi? Cioè gli sto facendo il danno a tutto qua. E la bella gente che da dicendo non si era avvisato, non era rimaniato l'ufficio. Ah, non so, c'era un figlio di antenna. Mica, ha cominciato da rovino con la tia a mangiare. Ma si mangia da Edo, burba, io sono entrata, che si è mangiato da Edo. E i baracchini burri hai mangiato. Forse si fa la mangiare tra l'altro. Edo viene a cuccia, deve pure la radio. E non ho azzeccato chi sa sui, aveva famitato con la radio dei cani. E allora la gente poi le arrumacco le cuffie, che se no rimane le girose, arrumacco a corta di buruetti. Con le cuffie non lo descrivece nessuno. Anda bene, anda bene, con le cuffie le dico che sì. E ma vai, dai, dai, dai, dai. Vai a coccare, mi lascia sempre le zente mari. Oh, mi pare che ci metto un piede, portate la bocca di un gatto. Oh, allora entra che è la prima cosa, allora, non puoi entrare, o se no hai fatto il buffo, entra di notte quando si sta rendendo altri. Ehi, un pipistrello, come ti fa di marino? Allora di Sarra entra. Ehi, allora devi andare a mangiare, entra, ma che marino mangia per tardi? Non devi pigliare, invece noi siamo obbligati a che tu la devi pigliare i benzini e devo fare cosa da fare. E allora, Marino mangia sempre, pure in piedi mangia. Anzi, va a vedere e mangia. Via da Edo. Si può permettere queste cose. Vediamo signor Gio Maria se è rientrato. Signor Gio Maria. Eccomi qui, buonasera, eccomi qua. Era ora. Sì, era ora, che a tre non ce la bisco di fuori niente, no. Vai alla 27, che la 27 è accesa. Sì, io che sia accesa, dai gridi. Che a no, è sempre accesa. Sì, buonasera, signor Maria, contatto. E la 27 è accesa. Perché fa 27-28 voi? Beh, grazie a... Ehi, la 27 è accesa, ce l'ha! Sì, la 27 ce l'ho accesa. E basta! La 27 voglio andare. Ehi, la famo lì, che c'è Natalino. Io in 27. Sinu! Calabba! Ha detto UFO! Che cazzo? Ha detto UFO! Mi sto facendo le ciurica! sentito. Qua sta andando solo il mezzogiorno, forse ne ho fatto di più, poi non ce l'ha venuta mia figlia a mangiare. E io però rispondo, faccio per patate, un segno. E tu lo vuoi, tu non me l'ha messo. Ehi, cosa c'è di buono a mangiare? Faccio fuselli al sugo, patate, carciofi, salsiccia, formaggio, e mozzarella, insalata di pinocchio, insalata verde. Altro voi, cato, scatolette, un po' di tutto. Chi cato quanto mangi? Io mi mangio il fuselli e faccio per le patate. Ho un pezzo di prosciutto, di quello tutto condito, con l'origano, quello lì. Poi c'è anche l'altro, quello che fai a pezzi fini e fini. Ora è due, con tuzzani. Ma fai beh, è mezzo bicchiere di vino, da. Mezzo no, quasi, da. Tutte quante agri... Allora, 111. Vabbè, ho fatto l'insulina, so scende, già va bene, dai. Andava lì, 111, adesso me lo faccio là, adesso mi faccio l'insulina, me ne faccio 8 là, perché devo mangiare. No, io stanotte leggero, un hamburger, un po' di salata, un po' di frutta, boh. A te mi faccio l'insulina. Ma la pasta al forno mi. Fuselli, fuselli al sugo, buona reggia Stavate leggero, se non dormo. Ehi, se non dormo, dormo domani, va. Vero. Ehi, ciao, buonanotte, a domani. Ti ringraziamo, una cena, buonanotte, ciao, saluta la Paoletta, ciao. Ciao. Yeah, ciao, ciao.